RadioTube Social Village di Marta Cagnola. Eccoci insieme per la prima delle due ore di diretta, come sempre ogni sabato pomeriggio, con Radio 24, RadioTube Social Village, RadioTube Social Network. La prima ora con un sacco di spettacoli, tantissima musica in questa prima ora di RadioTube Social Village, poi tutta l'attualità della rete e dalla rete di RadioTube Social Network. SMS e WhatsApp al 349-238-6666 e poi ci sono i miei account di Twitter e Instagram, @ Marta Cagnola. Siccome abbiamo tantissimi ospiti e vi ho detto tantissima musica, ma iniziamo con qualcos'altro, iniziamo con la televisione. Io partirei subito così. Furto con scasso zero, contravvenzioni zero, delitti zero. Questo posto è fantastico. Commissario! Dica! Vaffangulo! Quello si è fatto trasferire qui per non fare niente. Conta i giorni che mancano alla pensione. Essendo il vostro paese senza reati, questo commissariato dovrà chiudere entro i prossimi 3 mesi. Mi trasferiscono alla Catturandi di Palermo. La son cazzo! Wenn ich erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt. Im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß. Und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends. Mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not. Ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür. Wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja U-Bahn auf. Singers. Da bin ich um. Oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh. Er wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um. Alles klar, Herr Kommissar. Lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema, in streaming su Now TV, disponibile anche on demand, arriva Cops, la storia di un gruppo di poliziotti in una cittadina pugliese senza nemmeno un reato. E così i reati cominciano a commetterli loro per non essere licenziati. C'è Claudio Bisio, c'è Stefania Rocca, c'è Pietro Sermonti e con noi a RadioTube ci sono il regista Luca Miniero e Francesco Mandelli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Luca, intanto vorrei sapere da dove è nata l'idea di Cops, perché ho letto che viene da lontano. Sì, viene dalla Svezia ed è l'idea del primo episodio, in realtà si tratta di due puntate. Il primo episodio è ispirato a questo film svedese del regista di Yalla Yalla, appunto Cops, al quale appunto abbiamo preso anche il titolo. In realtà poi la storia è diversa, completamente diversa ovviamente, perché si tratta appunto di una storia ambientata in Italia, però diciamo il punto di partenza, la miccia deriva da questa storia svedese. In realtà è molto presente in Cops anche un po' i generi tipo scuola di polizia, ma anche in qualche modo una ironia sul genere del poliziesco che ha invaso la nostra televisione negli ultimi anni. C'è una squadra di poliziotti particolari in un luogo troppo tranquillo, un paesino senza reati ma con dei potenziali grandissimi poliziotti. Il più motivato di tutti è Benny the Cop. Francesco? Sì, è un personaggio stupendo Benny, perché diciamo ha quel grado di follia che gli consente poi in scena di poter fare delle cose assurde anche, no? E quindi di giustificare anche delle cose assurde. Purtroppo però non è nel Bronx, e appunto come diceva Luca è ad Apulia, in un posto dove non ci sono reati, quindi lui non si è mai messo veramente alla prova. E poi ha anche un lato, secondo me, molto che è utile anche poi alla storia, che lui è veramente ci crede nella professione del poliziotto, no? Quindi quando questi poliziotti devono cominciare a commettere dei reati, lui è quello che si oppone da un certo punto di vista, giustamente, quasi quello più sano in quel momento, perché crede così tanto nella professione del poliziotto. Poi vabbè, ha un rapporto meraviglioso con la nonna, però è tutto da vedere, non si può raccontare. Francesco, Luca ha citato Scuola di Polizia. Diciamo che c'è un immaginario pop meraviglioso. Quanto ti sei divertito? Tantissimo. Guarda, ti posso dire che Cops veramente era la cosa più bella che mi potesse capitare adesso come attore, anche perché io era un po' di tempo che non facevo nulla era dal 2016 che non facevo una cosa con così tanta presenza, diciamo, al cinema, perché non mi arrivava nulla di, era sempre un po' tutto uguale, o comunque avevo la sensazione che la percezione mia come attore per il pubblico, per l'industria, fosse semplicemente quella. E io avevo voglia anche di fare delle cose che fossero diverse. Ora, Benny è un personaggio sicuramente di commedia, quindi non è che voglio fare un film drammatico, però era in un impianto che io non avevo mai esplorato, e soprattutto con degli attori strepitosi. Cioè, quindi, poi anche la cosa bella che si vede, che dicevo anche in conferenza stampa, come tutti questi personaggi, questi attori, pur venendo da mondi diversi, posti diversi, pur avendo personaggi diversi con le loro follie, la loro comicità, quando sono insieme suonano benissimo. E a me, che piace insomma un po' la musica, così è come veramente una band, no? E la band, non è detto che quegli attori, parlo di me, siano i migliori a fare quella parte, ma sono quelli più giusti a suonare dentro quelle persone lì. E io credo che Luca sia stato proprio bravo a costruire questo, a costruire la chimia che c'è stata umanamente tra di noi. E poi quella cosa chiaramente la vedi quando reciti, quando fai una cosa comica, quando fai una cosa di commedia, quel rapporto lì, quell'amicizia lì, la senti, perché è tra amici che si scherza, è tra amici che ci si diverte. E quindi questo secondo me è un plus importante per me come essere umano, perché ho vissuto un'esperienza meravigliosa al di là della professione. È stata un'esperienza splendida, ma spero che anche le persone poi si divertiranno. Luca, hai dipinto dei personaggi che è un peccato, dai, abbandonare dopo solo due episodi, quindi abbiamo la speranza che possa diventare una serie? Sì, no, credo che in effetti, guarda, noi l'abbiamo saputo un po' in conferenza stampa, nel senso che pare che continuino, ovviamente, perché le cose continuino, non occorre soltanto che siano fatte con gusto, come siamo certi sono queste due puntate, occorre che anche la gente misteriosamente le guardi, no? E quindi se la gente, come mi auguro, guarderà queste due puntate, sicuramente penso che Sky avrà piacere di continuare. Diciamo che adesso il gradimento rispetto appunto a quelli che l'hanno visto è molto alto, perché francamente anche io, che sono molto critico, devo dire, con un cast di attori del genere, una storia così, anche soprattutto il secondo episodio, ho trovato veramente brillante, paradossalmente quello non ispirato al film svedese. Ecco, in quel caso devo dire che con un finto morto che risorge, diciamo, c'è della commedia sicuramente, ma anche la forza di una squadra. Ecco, la forza di una squadra mi sembra poi il valore anche emotivo che caratterizza questo progetto, che non è soltanto un progetto da ridere. Francesco, tu sei pronto a tornare nei panni di Benny the Cop? Sì, non vedo l'ora per tanti motivi, non vedo l'ora di leggere quello che succederà. Se mai avrò l'occasione di leggere quello che succederà nelle prossime puntate, e non vedo l'ora di tornare sul set. Questo è un lavoro bellissimo, adesso non voglio essere retorico e menso, però è un lavoro molto bello che io ho scelto perché mi diverte, i modi di divertirsi sono tanti, no? Uno magari a volte si diverte con una sfida, si diverte con qualcosa che non sa fare, qualcosa che lo porta nell'ignoto o esplora campi diversi, oppure si diverte perché riesce a mischiare questa voglia di scoprire anche con un ambiente professionale meraviglioso. E quindi devo dire che faccio i complimenti a tutti, proprio perché quello è stato un ambiente professionale meraviglioso, e non vedo l'ora di tornarci, semplicemente come un bambino, come Benny the Cop bambino, capito? Non vede l'ora di tornare a fare una sparatoria. Allora, Prima TV su Sky Cinema il 14 e il 21 dicembre. In streaming su Now TV arriva Cops. Grazie a Francesco Mandelli e Luca Miniero. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Marta, grazie. Ciao Francesco, un abbraccio. Ciao Luca. Ciao, grazie. A presto, buon lavoro, ciao, buona festa. Ciao, ciao. Radio Tube Social Village. Giorni lenti, oscuri e trasparenti scorrono, invisibili e vedenti si rincorrono, contro la corrente, contro gli infermieri che soccorrono noi, dentro acquari asciutti che galleggiano, fuori vedo il mare, in bocca solo polvere, sapore d'un ricordo di sale ancora da risolvere, lavorare sul togliere, riordinando il resto, fuori splende il buio mentre sto cercando un testo, trovo parole appuntate, matite spuntate, brandelli d'estati passate, date per scontate, esser liberi non ho un prezzo calcolabile, né quando ce l'hai, né quando lo stai per perdere, sto per piovere, altre lacrime bagnano pagine ancora da scrivere, guardo il foglio e vedo solo nuvole, vorrei essere immune, esser fuori dal comune, senza uscire dal comune, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole, nei comuni che fanno alzare i droni a inseguire. Un pezzo bellissimo che si chiama Nuvole ed è il nuovo singolo di Frankie iEnergy. Ciao Frankie. Ciao, grazie, che piacere. E Frankie, è la prima volta che ci sentiamo a RadioTube, mi sa. No, è il primo contenitore a tubo che ci vede unite. La verità è che era da un po' che non ci regalavi qualcosa di nuovo. Con che stato d'animo ci porti Nuvole a un momento così difficile? Con lo stato d'animo di chi ha usato quel pezzo per affrancarsi dalla paura del buio, perché nasce come inconsapevolmente come una svolta terapeutica alla ossessione condivisa di un periodo in cui la ricerca delle news, delle informazioni, dei dati da incrociare, da verificare, da sovrapporre diventava totalizzante e quindi Fresco, Leonardo Beccafichi, mio producer, mi ha mandato una base, dicendo vabbè, scrivi qualcosa, dico bella sta base, però sinceramente a me non è che venga un granché, non mi viene niente da scrivere, e gli ho detto ma prova a scrivere del fatto che non ti viene niente da scrivere, hai visto mai, tutta una parola, e ho messo in atto questo consiglio e devo dire che si è rivelato per l'ennesima volta terapeutico e magari capace di generare un'utilità condivisibile anche quella, e sembra che sia andata così perché in tanti si sono sentiti raccontati. Tu da solo, Fresco da solo, è un pezzo nato in solitudine? È nato in isolamento, ma non in solitudine, perché usando l'isolamento come un limite virtuoso, consente di focalizzare, di avere tempo, di avere energie, di avere focus, avere i nervi più scoperti fa sì che i disagi siano più immediati, ma che i piaceri siano soavi. Il fatto che io fossi a casa mia a Cremona, Fresco fosse a casa sua a Città di Castello, registriamo una roba, la mandiamo a sentire a Saturnino, a casa sua a Milano, per avere un parere, e lui cosa fa? Registra un basso dentro casa sua e ce lo manda. A quel punto mandiamo tutto a DJ Stile a Roma, sentiti sta roba, e lui ci mette sopra gli scratch, e poi questi file li mandiamo a casa di Pinaxa che li missa, cioè professionisti pazzeschi, cioè i top di gamma della scena musicale italiana, che ognuno da casa propria coopera e collabora in un progetto comune. annullando la clausola solitudine dell'isolamento. E questo la tecnologia ce lo consente. Se, cioè, 10 anni fa una situazione simile avrebbe avuto delle conseguenze devastanti, mentre grazie alla tecnologia alla belle meglio, però si riesce ad andare avanti. E già che c'ero, ho fatto anche il video. Ah, eppure un video molto carino. C'è una cosa che si dice spesso, e tu sei riuscito a sintetizzare in pochissime sillabe: brandelli d'estati passate date per scontate. Quante cose molto belle erano, molto belle, e noi non ce ne accorgevamo perché ci sembravano normali. Questa frase, la frase che hai scritto, è stata una coltellata per me. Anche per me, te l'assicuro. Te l'assicuro, infatti è lì ancora sanguinante nel testo della canzone, perché è una amara constatazione, anche questa condivisa, del rimpiangere la normalità. Ecco, nel lutto collettivo che stiamo attraversando, quella è la prima cosa che è emersa chiarissima a tutti: la mancanza della normalità, la mancanza del oddio che palle, ce ne sono 4 davanti a me a prendere sto pacco in posta, mannaggia, vabbè, torno più tardi. Queste cose qua si passerà, chiaramente, oltre ad avere una deriva di miglioramento. Io non esco di casa portandomi in tasca una fotocopia stampata da Google Art con una circonferenza di 200 metri avente casa mia al centro, perché in un raggio di 100 metri dalla propria abitazione si può svolgere l'attività fisica. Ecco, questo livello di paranoia oggi io non ce l'ho più, e come me tanti. Ci si sente avviluppati da un qualcosa che non riusciamo ancora a cogliere bene, che ci sentiamo addosso fastidioso, molesto, certa intolleranza a delle regole, certe regole che sembrano scritte apposta per generare l'intolleranza, cavoli. Insomma, siamo in una fase di contrasti, una fase di ossimori, e Nuvola, essendo fatta di ossimori, ho scoperto che racconta bene anche questa di fase, nonostante sia nata in quella decisamente peggiore. Nel pezzo dici: adesso per me voglio qualcosa di meglio. Allora, Frankie, adesso cosa vuoi davvero per te? Adesso voglio andare avanti con questo successo, perché sta facendo successo la canzone, quindi sono molto contento di questa cosa, e lo sta facendo con le proprie gambe, diciamo, non è che c'è un sostegno così promozionale o un apparato di una squadra di tecnici insider e cose varie. Sicuramente andare avanti con questo e poi far uscire un altro singolo, perché mai come in quest'epoca la musica, secondo me, ha ragione d'essere sotto forma di successione di canzoni, che possono chiamarli singoli o cose varie, però una successione di canzoni, una secrezione di canzoni che diventano via via fruibili sulle piattaforme. Un po' come succedeva una volta la musica veniva consumata sotto forma di 45 giri di singoli, perché quelle erano le canzoni che stavano nei jukebox, e il successo delle canzoni lo decretava il numero di volte che erano suonate dentro i jukebox, quanto incassava una canzone su un jukebox. E oggi il più grande jukebox del mondo ce l'abbiamo in tasca, è talmente figo che non devi andare a cercare la canzone, ma basta che ce la scrivi dentro PG Play e lei parte, e funziona esattamente nella stessa identica maniera dei jukebox. Negli anni 60 si facevano i singoli, e poi quando diventavano abbastanza si raccoglievano come le figurine in un album. Magari ci mettevi un paio di inediti, e questa modalità, secondo me, è la più sensata, contemporanea, e ti dirò, dal mio punto di vista, anche la più gratificante, perché un conto è creare un concept, cioè un album che ha una propria struttura interna, intima, Storia di un impiegato di De André si può ascoltare in singoli pezzi, però è un'opera, te lo ascolti di filato, è raccontata una storia con i vari punti di vista, con vari momenti, varie fasi, e quindi quello ha senso avere un'uscita unica. Ma altri album, no, miei album, non c'era nessun problema, finché Verba Manet uscisse sotto forma di un singolo dietro un singolo dietro un singolo, e per un certo verso anche così è stato, perché ne sono stati estratti parecchi. Quindi, secondo me un buon passo nel futuro è fare come facevano nel passato. E allora viva il nuovo 45 giri di Frankie ai Energy Nuvole. È un gran bel 7 pollici. Grazie Frankie, un abbraccio. Grazie a te, è sempre un piacere fare quattro chiacchiere con te. Radio Tube Social Village. E rieccoci insieme dopo la pausa e soprattutto dopo questo Frankie High Energy, che a me fa sempre un sacco piacere risentire. E non era davvero stato ospite da molto tempo da noi a Radio 24, è veramente un personaggio straordinario. Abbiamo parlato anche di Cops, di questa che è per ora una commedia in due atti, ma come avete capito diventerà una serie su Sky. E Damiano da Roma al 349-238-6666 chiede se va bene anche per bambini. Non ci sono volgari, non ci sono scene strane, direi che per i ragazzi può andare bene, insomma non c'è scandalo, sì, può andare bene anche per i ragazzini. Allora, bambini piccoli non so se lo possono apprezzare, però poi soprattutto il personaggio di Benny the Cop è molto simpatico, quindi io direi che il semaforo è verde. Allora, ancora musica? Sì, perché abbiamo un altro grande personaggio che sono contenta di ritrovare a Radio Tube. Quello lì è un ragazzo speciale, quello lì che passa e se ne va, e si porta chiusa nella chitarra la sua anima underground. Quello lì che non c'è niente da fare, non c'è verso, tanto non capirà, che chi è fuori dal giro che vale è dal giro della pubblicità. Non c'è, non c'è, non c'è. E se vuole restare fuori dalla rete, non c'è, non c'è, non c'è. E passa per le strade e nessuno lo vede, quello lì che non si vuole adeguare. Torna con un nuovo album che si intitola Non c'è. Uno dei più grandi cantautori italiani torna anche a Radio Tube, Edoardo Bennato. Ciao Edoardo! Ciao! Che bello risentirti, Edoardo, come sono contenta. Allora, in questo album ci sono un po' delle tue canzoni classiche e un po' di canzoni nuove, ma mi piace dire che questo è tutto un album di canzoni nuove, perché anche se ci sono canzoni di qualche anno fa, ci parlano un po' come canzoni nuove. Questa è la mia sensazione, Edoardo. Perché? Perché per una serie di circostanze, anche quelle scritte molti anni fa, sembrano attuali. Una di notte c'è il coprifuoco, pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare, tutti dentro chiusi ad aspettare. Per fronteggiare la situazione c'è stato il programma alla televisione. Hanno parlato tutti gli avvocati di tutte le bandiere di tutti i partiti. Ed è stato proprio commovente vedere tutti quei grandi sacrificare le proprie idee in nome del bene della gente. Come hanno dato severe istruzioni di stare calmi, di stare buoni. Buoni su, buoni ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Bravi su, fate bravi ragazzi, vedrete che poi sistemeremo tutto. Ecco, questa sembra un po' la colonna sonora di quello che viviamo, perché comunque è una situazione è spettrale. la situazione è orwelliana, Orwell, è collodiana per certi versi, schizofrenica. Io tra l'altro mi considero un privilegiato perché comunque è una casa grande, adesso mentre sto parlando con te guardo Nisida, il mare, e penso magari tutta la mia solidarietà a tanta gente che sta chiusa in casa, magari sono in tanti, hanno delle case anguste, senza luce, insomma, e quindi mi considero un privilegiato. D'altra parte io ironizzo, ho sempre ironizzato, e oltre a ironizzare provoco. Io faccio musica che è provocazione, è musica che è destabilizzante, che è iconoclasta e che è comunque sempre, costantemente contro l'establishment, contro l'ordine costituito, contro il potere. È una dichiarazione che ho fatto nella prima ora, io sono un rinnegato. E per certi versi addirittura, come nel brano di Capitan Uncino, c'è Capitan Uncino che dice: questo Peter Pan è un qualunquista, è il più pericoloso, il primo della lista. Ecco, io per molti in questo momento sono su una lista nera. Salviamo il salvabile, dicevi tanti anni fa. Siamo proprio nella fase del salviamo il salvabile. Sì, guarda, non so se hai visto il video, il cartone animato di Non c'è. C'è questo ragazzino che suona per strada, e anche se viene poi intercettato dagli impresari, i gatti, le volpi, lui rifiuta di fare contratti, lui non vuole accettare compromessi e dialogo e contratti con il baraccone rotilante, apparentemente dorato dalla musica leggera, e quindi le canzoni se le fa per conto suo. E per certi versi io lo invidio, perché lui rifiuta il successo. Io invece, fin dalla prima ora in cui mi misi per strada come un ragazzino, il successo lo cercavo. E mi misi per strada perché all'indomani dell'uscita dell'album Non farti cadere le braccia, il direttore della Ricordi mi aveva licenziato, il direttore della casa discografica mi aveva detto: senti, c'è un problema, non trasmettono le tue canzoni in radio, la tua voce è stata giudicata sgraziata, sgradevole, per cui abbi pazienza, levati dai piedi, fai l'università, laureati, e per noi il contratto è sciolto. E quindi io mi misi per strada, one man band, e feci questi pezzi punk, come appunto lo sfotò al presidente Leone, Ma che bella città, Salviamo il salvabile. Erano dei pezzi punk. Sai, per punk, il punk era un movimento musicale rivoluzionario in cui l'approccio era questo: io mi muovo, canto e in modo schizofrenico nei confronti di una società che si dichiara, si proclama lucida, consapevole e saggia, e che invece è schizofrenica. Quindi la schizofrenia a livello di musica nei confronti di una società schizofrenica. Ecco, arrivano i buoni, Ma che bella città, e soprattutto Salviamo il salvabile, a questa valenza di provocazione e di ironia e anche di autoironia. Mi racconti però delle canzoni nuove? Le cose nuove, vedi, come dicevi tu, non c'è soluzione di continuità tra i brani della primissima ora e quelli nuovissimi. Tra l'altro, per una serie di circostanze, questa forzata permanenza in casa, questa segregazione, ha incentivato la mia creatività. Per cui già ad aprile ho fatto un pezzo che è inserito in quest'album con Eugenio. La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza. La realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione. Ecco, vedi, è una ballata, si chiama La realtà non può essere questa. Il senso di questa canzone è che la realtà che viviamo è inaccettabile. A questo punto non possiamo più crogiolarci nelle nostre utopie, nei nostri sogni, a volte magari anche ritenuti irrealizzabili, un po' il concetto dell'isola che non c'è, l'utopia, capito? Il sogno irraggiungibile, con un velo anche di rassegnazione. No, stavolta bando alla rassegnazione, stavolta a livello singolo, a livello collettivo, dobbiamo necessariamente modificare questa realtà spettrale che viviamo e darci da fare per costruire un mondo migliore. Quindi, vedi, anche qui c'è una relazione tra i due brani che sono presenti nell'album, L'isola che non c'è e La realtà. E poi, a proposito sempre dell'inizio in cui appunto ero per strada one man band e facevo questi pezzi folli, uno dei brani era uno buono, lo sfottò al Presidente della Repubblica, non so, ecco, Giovanni Leone, quale poverino si era macchiato di una grave colpa, cioè lui accentuava il suo, la sua cadenza napoletana. E quindi io per strada col tamburello a pedale, l'armonica, mi ero costruita a Londra, cioè trovai queste escamotage, visto che ero stato licenziato, visto che la mia carriera era stata così, si era interrotta prima di cominciare, e allora mi giocai questa parte, questa alternativa, mi misi per strada e feci questi pezzi punk. Finalmente sei arrivato su quel trono, entra in chini e faccia mano, fai il discorso, lo parli italiano, parli con l'accento della gente dove tu sei nato. No, buono, ecco, il Presidente Leone parlava con questo accento, vi invito, adesso. Parlava un po' come adesso parla De Luca, capito? E quindi io ho fatto questo pezzo ironico, poi siamo insalvabili, ma che bella città. Ora, quest'estate, dopo aver fatto il brano, la ballata acustica con Eugenio mi ha detto, senti Edoardo, sì, la situazione sarà anche spettrale, sarà così allucinante, però tu non devi demoralizzarti, anzi, devi proprio a questo punto fare appello a tutte le tue energie e la tua creatività e scrivere dei pezzi bennatiani, provocatori, più provocatori possibili. E allora, proprio pensando a uno buono, sono partito da là e ho fatto questo brano che si chiama Mascherate. Mascherate nelle piazze, nelle feste comandate, dov'è tutto fila liscio, dov'è ogni scherzo vale. Insomma, è un brano questo qui molto ironico, provocatore. E anche qui c'è un legame tra il passato e l'attualità, il presente. Del resto, vedi, questo tipo di musica che io chiamo musica rock, intanto può avere questa etichetta di rock se è provocatoria, se è destabilizzante. È vero. L'obiettivo comunque è sempre quello di dare energia propositiva, perché mai come in questo momento storico, in questa emergenza, tutti quanti noi abbiamo bisogno di propositività. La musica è uno scambio di emozioni positive tra noi e la gente, sia che sei su un palco, come 2 mesi fa all'Arena di Verona, sia quando fai un album, è uno scambio di emozioni. Io vado ai concerti cercando di avere emozioni, la musica è questo. Quindi l'obiettivo primario, al di là delle congetture, al di là delle lucubrazioni filosofiche e geopolitiche, è quello di dare emozioni. È l'obiettivo anche di questo disco. Tra l'altro, vedi, io mi disegno sempre le copertine. Stavolta ho pensato alla prima pagina di un quotidiano di domani mattina, in cui gli strilli del giornale, gli articoli del giornale, i titoli, sono i titoli delle canzonette. Per cui il mistero della pubblica istruzione, Saviamo insalvabile, Mascherate, Signore e signori, Feste di piazza. Cioè, diciamo che i brani, sia i nuovi, sia quelli lì della primissima ora, si complementarizzano. Allora, quest'estate tu sei riuscito a fare qualche live, però noi speriamo di poter tornare presto a sentirti dal vivo. Spero adesso di recuperare tutti i concerti che erano stati rimandati, gli Arciboldi a Milano, a Bergamo, in tutta Italia, perché comunque è attraverso il rapporto col pubblico, è attraverso i concerti che ti schiarisci le idee e percepisci quello che va bene fare, quello che invece non funziona, e quindi c'è questo scambio costante tra quello che fai sul palco e quello che fai, che poi incidi nei dischi. Grazie a Edoardo Bennato. E anche a tutti gli ascoltatori, magari quelli che sono in macchina, anzi, se siete in macchina state attenti, guardate sempre lo specchietto retrovisore, è fondamentale non soltanto vedere quello che avete davanti, ma anche quello che c'è là, tutto intorno, fate conto che state in un sommergibile. Bellissima questa, grazie Edoardo. Grazie a te. Radio Tube Social Village. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My old time flies so quickly. Like, tra parentesi, Starting Over è una delle canzoni che io amo di più di John Lennon. Abbiamo parlato tanto di John Lennon in questi giorni perché l'8 dicembre sono passati 40 anni dalla sua tragica morte. Ma non voglio parlare di John Lennon, abbiamo già parlato a lungo, anche se insomma varrebbe la pena parlarne sempre, parlare di lui, di quello che ha rappresentato. Ma vorrei parlare proprio... Adesso non spaventatevi, ma io vorrei parlare delle ultime ore dei grandi personaggi della musica. No, ragazzi, davvero è qualcosa di estremamente affascinante. Adesso capiremo perché. Perché ho tra le mani un volume veramente bellissimo. Bellissimo, come sempre, sono molto belli i volumi di Oepli Editore, che fa delle, veramente dei gioielli. Amore, morte e rock and roll, le ultime ore di 50 rockstar, retroscena e misteri. E l'autore è lo Sherlock Holmes del rock and roll, Ezio Guaitamacchi. Bentornato a Radio Tube, Ezio, buonasera. Buonasera a te, grazie. Sono con cappellino, pipa e cappotto con la mantellina, come ti vedo, come il videatore di Tolandò. Ti ci vedo, Ezio, ti ci vedo. Ezio, in comune suonavamo entrambi il violino, io molto meglio di lui, da quello che vince dalle righe. Un però, violino. Ezio, mi spieghi come mai questo soggetto alla fine ci affascina, ci attira? È un argomento del quale vogliamo sapere, la verità è questa? Beh, un po' è quello, sai, sono grandi personaggi, li abbiamo visti come semidei o come divinità, e il momento in cui loro passano a miglior vita, come si dice, li avvicina anche un po' a noi, anche se molte volte noi non vogliamo che loro se ne vadano, no? Ed è per questo che si creano tanto falsi miti o strane leggende. Io li ho voluti vedere però anche dal punto di vista personale, ecco perché nel titolo del libro c'è la parola amore, anzi la prima parola delle tre, no? Perché una volta Lori Anderson, moglie e compagna di Lou Reed, uno dei protagonisti delle storie del mio libro, mi dice proprio che la morte può anche essere vista come la manifestazione dell'amore che noi abbiamo trovato per la persona scomparsa. Quello mi ha acceso un po' una luce, pensando che dietro alle ultime ore, appunto dietro i finali di vita di questi personaggi, c'è sempre stato però un grande sentimento e una grande passione che è andata anche oltre le nostre immaginazioni. No, prima citavi John Lennon, quella tra John e Yoko è stata una grandissima storia d'amore, di amicizia, di collaborazione artistica, quando magari ai miei tempi gli amici vedevano lei come la donna più odiata, la colpevole dello scioglimento dei Beatles. Invece ci sono tante storie stabili, che sono quelle che anche noi miseri esseri umani alla fine aspiriamo di avere, no? Al di là delle, come dire, fantasie, no? Che tutti noi possiamo avere. Questo, ma anche purtroppo il contrario, cioè l'assenza dell'amore, il vuoto, la solitudine, sono state anche quelle, come dire, complici di morti malinconiche, tristi. Quindi nel libro c'è un po' tutto, sono morti poetiche, morti drammatiche, morti violente, morti malinconiche, pensa a Amy Winehouse, a Janis Joplin, a Whitney Houston o George Michael, sono anche tanti quelli che hanno un finale di vita veramente malinconico. Ezio, hai diviso il libro in sezioni che non sono cronologiche, ma sono sezioni tematiche, perché noi abbiamo da Robert Johnson a XXXTentacion, quindi andiamo, abbiamo un secolo di musica pop e rock. Sì, ho voluto seguire un criterio diverso. Normalmente la saggistica, che è quella di cui mi occupo io, ha come, soprattutto la storia, ha come della cronologia come il più ovvio, no, dei sistemi di classificazione. Io ho trovato questa idea invece di mettere insieme tipologie di morte, che suona macabrissimo, ma perché vedevo che c'erano comunque dei fil rouge tra questi personaggi. Allora ho mantenuto quell'idea, però l'ho un po', come dire, resa meno crudele, utilizzando dei titoli di canzoni della storia della musica famosi, anche abbastanza espliciti, quindi Psycho Killer per gli omicidi, Rock and Roll Suicide per i suicidi, The Needle and the Damage Done per le overdose, eccetera eccetera, riservando un'ultima sezione per, rifacendo il verso a un famoso film che è stata una bellissima trasmissione che facevate voi di Radio 24, gli ho chiamati Blood Brothers, fratelli di sangue, sono destini incrociati, certo. Sono personaggi che magari in vita non hanno avuto a volte connessioni reali, ma che le hanno avute in virtù delle loro morti. Pensa a Michael Jackson e Elvis, che diventano parenti post mortem, no? Cioè quando Elvis ormai è morto, Michael Jackson sposa la figlia di Elvis e diventa suo genero, per dire, no? Ecco. Ezio, ti chiedo un'ultima cosa, abbiamo ancora un minuto. Tu hai parlato del fatto che ci sono anche le leggende metropolitane, perché noi non vogliamo mai separarci da questi personaggi. Ci sono leggende che riguardano quasi tutti in realtà scappati su un'isola in un atollo sperduto e stanno vivendo ancora insieme molto felici. Io penso più, anche se non è una dichiarazione di fede, penso più a un paradiso del rock piuttosto che a un'isola tropicale in cui Jim Morrison alla faccia nostra sta bevendo un cocktail colorato o Elvis Presley in qualche sperduto McDonald's America. È quello che ti dicevo prima, un po' come gli eroi dello sport, no? Noi non vorremmo mai che si ritirassero, ecco, i nostri grandi eroi della musica non vorremmo mai che ci lasciassero, anche perché purtroppo lasciano anche tanti vuoti incolmabili nelle nostre discoteche, perché molti di loro se ne sono andati un po' troppo presto, John Lennon incluso, aveva solo 40 anni. C'è una cosa consolatoria però, che spero passi anche attraverso le righe del mio libro, è che i loro corpi come i nostri vengono sepolti, però le loro opere vivranno per sempre. Quindi in qualche modo, da questo punto di vista, loro raggiungono l'immortalità. È vero, verissimo. E tra l'altro questo libro non solo è pieno d'amore più che di morte, come diceva Ezio, ma anche pieno di ottima musica, quindi ci sono anche degli artisti che magari abbiamo dimenticato, abbiamo trascurato o non facevano parte della nostra formazione musicale, e si possono scoprire un sacco di cose davvero leggendo questo Amore, Morte e Rock and Roll, le ultime ore di 50 rockstar, retroscene e misteri, edito da Oepli, grazie allo Sherlock Holmes del rock Roll. Mi piace tantissimo Ezio Guaitamacchi. Ezio, grazie per essere stato con noi. Ciao Marta, buone feste a tutti voi. Grazie Ezio. Bene, abbiamo parlato oggi anche perché allora è tempo di regali, e quindi ragazzi ci sta, lo so che uno dice vabbè avete parlato di, però è come leggere un giallo, no? Ci sta, sono delle storie veramente affascinanti, piene di passione, piene anche di amore, anche se alcune ci lasciano un po' di malinconia. Allora, il nostro tempo per la prima ora di RadioTube è scaduto qui. Io già vedo il co-conduttore d'eccezione della nostra seconda ora, che è lì davanti al vetro, che sta aspettando di entrare, e lo so che siete curiosi di sapere chi è, lo saprete tra poco, perché adesso c'è il giornale radio delle 17 e poi saremo ancora insieme.